c'è stato questo arresto del maggiordomo, è lui il corvo. Io ho un po' di inquietudine, devo dire, perché qui siamo di fronte a una misura cautelare, quindi a un provvedimento molto rigoroso, in assenza di prove, cioè noi non abbiamo il becco di una prova a carico di questo uomo. Cioè ci dice qualcuno, o meglio un ufficio stampa, la sala stampa, ci dice che è stato trovato a casa con delle quantità enormi di documenti. Oddio, se lui il corvo deve essere veramente un po' fesso, perdonatemi, perché tenersi in casa un metro cubi di carte dopo tutto quello che era successo. Poi cosa accade? Accade con una rapidità che non sono abituato, seguendo certe le cronache vaticane rispetto ad altri misteri. E poi c'è un altro aspetto ancora più sorprendente, perché questo vogliono le loro leggi. Il processo sarà segreto, noi non sapremo nulla, sapremo qualche indiscrezione, e la segretezza per me è l'anticamera del dubbio.